Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, siamo in estate piena e quindi c'è una categoria di persone che magari è più debole rispetto agli altri periodi dell'anno, anche perché magari non ci sono i vicini di casa che possono aiutare in certi casi. Sì Francesco, hai detto una cosa giusta, le persone anziane nel periodo estivo sono ancora più indifese, tra virgolette, rispetto al periodo invernale, proprio perché sono più sole, perché possono trovarsi in un condominio con meno inquilini per tante altre varie motivazioni, magari i parenti, i figli sono in vacanza, e quindi diciamo, la possibile solitudine delle persone anziane e l'insicurezza aumenta nel periodo estivo. Chi non va in vacanza purtroppo sono i venditori porta a porta e soprattutto i venditori di contratti luce e gas, perché sappiamo che fra un po' verrà tutto liberalizzato e quindi diciamo c'è la caccia al cliente, una caccia che però si sta rivelando molto selvaggia. C'è un episodio particolare, Francesco, che è successo dalle parti di Mestre esattamente la scorsa settimana, cioè alcuni venditori di contratti che si erano spacciati per venditori dell'Enel, poi questo è tutto da capire, sono stati inseguiti e picchiati da alcuni condomini di un appartamento, o condomini anche conosciuti dalle forze dell'ordine, però ecco, diciamo che i venditori non, in questo caso si sono scontrati con la dura realtà di queste persone che non volevano intrusi in casa, probabilmente pensavano a dei ladri. Però insomma questo dà l'idea dell'esasperazione che si vive in questo momento, con questa frenesia da parte dei venditori, dei procacciatori di clienti, di vendere i propri contratti di luce e di gas. Noi quotidianamente vediamo anche nella nostra via dove lavoriamo ragazzi, soprattutto giovani, che vanno nelle case per vendere i loro contratti. Chiaramente stiamo parlando di cose legittime dette così, però in realtà quando avviene la vendita di solito nasconde sempre molto spesso alcuni escamotage che insomma bisogna rivelare alla gente perché sappia difendersi il meglio possibile. Sì. Diciamo subito, ecco, alle persone anziane ma anche alle persone giovani, che quasi nessuna azienda seria manda dei procacciatori di contratti in giro per le case. Solitamente i contratti avvengono in altra maniera, magari anche chiamando le persone a casa, ma più raramente andando nelle case. Quindi già le persone che ci vengono in casa a proporsi il contratto ci devono mettere alcuni dubbi. Se arrivano, la prima cosa da fare è ovviamente quella di chiedere il cartellino con nome e cognome, però anche in questo caso ci siamo resi conto che qualche volta anche questi cartellini vengono contraffatti, quindi anche questa non può essere non può dare la sicurezza totale di trovarsi di fronte a una persona totalmente onesta. A questo punto allora scattano altri meccanismi di difesa fondamentali. Diciamo chiaramente all'utente che si trova in casa, al venditore di contratti di energia, di non rilasciare mai alcun dato, tantomeno di mostrare le proprie bollette, di indicare il proprio POD e ovviamente il proprio non dare alcun dato circa il proprio conto corrente. Queste sono delle cose base. Anche se noi vogliamo stipulare il contratto perché ci interessa il tipo di offerta, non diamo nessun dato di questo tipo, ma attendiamo che l'azienda in questione ci chiami o ci mandi una lettera e infine ci mandi anche un contratto da firmare. Questo deve essere proprio una cosa da fare sempre, quindi arrivare a dire anche al venditore che ci entra in casa, cosa che bisognerebbe evitare, ma se succede bisogna appunto chiedere di dire di non fornire alcun dato. Bisogna non fornire alcun dato e bisogna chiedere appunto di ricevere una telefonata dall'azienda in questione e comunque di ricevere un contratto cartaceo, perché Francesco, a questo punto noi andiamo a chiedere che qualsiasi contratto sia cartaceo e venga firmato. Noi andiamo a chiedere l'eliminazione anche degli antipatici contratti stipulati al telefono, che tante fregature hanno tirato soprattutto appunto alle persone anziane. E sono d'accordo. Ricordiamo che l'autorità per l'energia elettrica e per il gas sul suo sito ha anche pubblicato una serie di, una lista nera dei fornitori da cui difendersi e di cui diffidare. In più è anche stilato un elenco di misure per il consumatore affinché possa difendersi da questi contratti che molto spesso, non sempre, ma molto spesso possono rivelarsi dei contratti truffa. Ora, queste persone che vanno nelle case molto spesso sono anche persone che lavorano e che sono persone oneste, però fanno di tutto per vendere il contratto e quindi ogni tanto non ci raccontano tutta la verità. Quindi in realtà il primo consiglio che dà l'Adico è quello di non stipulare i contratti in casa propria, ma di andarseli a cercare, quindi di andare nei vari negozi per chiedere, per vedere le varie offerte, oppure andare nei vari, sì, oppure informarsi telefonicamente. Sappiamo che alcune aziende hanno in tutte le città dei loro uffici, quindi andare anche nei loro uffici. Però ecco, sapere sempre che le persone che ti vengono in casa tante volte usano degli escamotage per far firmare un contratto che può essere reale, come no, a volte non è addirittura neanche reale, a volte ci sono delle firme false, però insomma ecco, sono dei contratti che per i quali bisogna sempre stare molto attenti. Francesco, noi abbiamo avuto persone sia per questo che per i venditori porta a porta di materassi, di armadi, di cuscini, abbiamo avuto persone che ci sono venute in ufficio, soprattutto donne di una certa età, piangendo e dicendo che addirittura il marito voleva divorziare. Ora lo diciamo con mezzo sorriso sulle labbra, in realtà si creano dei veri e propri drammi. Esatto, va bene, quindi la prudenza è d'obbligo, informarsi si può, quindi eventualmente mandateli via e ditegli di tornare quando ci saranno i vostri figli, i vostri parenti tornati dalle ferie. Mi raccomando, cari amici all'ascolto, grazie all'Adico che ricordiamo ha un sito che è associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate poi i numeri di telefono per contattarli per eventuali richieste di aiuto. E quindi saluto anche Gianluca Codognato, con il quale ci ritroveremo tra qualche giorno. Ciao a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.